Essere e benessere, di Nicoletta Carbone. E che più avanti vai, più ti trovi di fronte a certi cipolloni. Mangiare, mangiare per non morire, ma digerire, digerire. Fate tutto facile voi. La mia vita è piena di cipolle. Anche lo stomaco non fa in tempo. Cipolla scuola, cipolla lavoro, cipolla sesso. Dai, mangiare, giù, giù. Mangiare per non morire, ma digerire, digerire. Va bene, scuola, lavoro, sesso. Posso anche digerirli, che poi c'è da vedere. Ma con la cipolla esistenza, come la mettiamo? A ciascuno la sua cipolla o le sue cipolle. Buongiorno da Nicoletta. Ci sono cose difficili da digerire, che proprio non vanno giù e che richiedono molta energia per essere metabolizzate. Situazioni e relazioni indigeste per loro stessa natura o per la nostra incapacità di mandarle giù e di trasformarle. La digestione è in fondo un processo di trasformazione, ma non solo di quello che portiamo alla bocca. A volte anche la vita ci resta un po' sullo stomaco. Un collega impossibile, un lavoro che non sopportiamo più, un amore che non è più fresco come all'inizio. Insomma, lo sappiamo bene, anche le emozioni vanno digerite. In linea con noi abbiamo il professor Alberto Pellai, medico ricercatore all'Università di Milano e psicoterapeuta. Ciao Alberto. Ciao Nicoletta, buongiorno a tutti. Senti Alberto, ha senso fare un parallelo tra i termini che usiamo per la digestione del cibo e quelli necessari per metabolizzare un'emozione? Sì, perché l'equivalente proprio delle reazioni biochimiche che permettono ai componenti del cibo di essere prima spezzettati e poi assimilati sono molto simili all'equivalente di una vera e propria reazione emotiva che ci coglie magari inaspettati e che necessita di essere metabolizzata attraverso processi specifici, cioè i reagenti di una reazione chimica sono in un'attivazione emotiva, le emozioni che proviamo e i pensieri che possiamo provare, ci sono proprio le variabili, quello che ci succede, quello che sentiamo e quello che pensiamo. La reazione finale è la sintesi di ciò che succede rispetto a queste variabili. Abbiamo però, come nella digestione, la possibilità di usare enzimi e catalizzatori. Che sono, e quindi, esempio, Alberto, qualche consiglio di digestione emotiva per i nostri ascoltatori? Perché di cipolle ne abbiamo tante sullo stomaco e altre ne dovremo mandare giù. Per esempio, usare bene questi enzimi, che sono le relazioni, cioè le persone che ci vogliono bene, di cui ci fidiamo, spesso sono proprio dei contenitori dove noi possiamo mettere quei contenuti emotivi che non riusciamo ad assimilare bene e con il loro aiuto possiamo digerirle e farle diventare cose che ci fanno bene invece che cose che ci fanno male. E magari un altro consiglio, proprio come c'è qualche cibo che ci fa male, quindi lo teniamo lontano, ci sono nostri modi di stare nella vita che ci fanno molto più male che bene. Se noi li riconosciamo, possiamo imparare a cambiarli e mettere nel nostro menù dell'esistenza le situazioni che invece ci aiutano a stare meglio. E Alberto, e questo potrebbe aiutarci a tenere anche un pochino più sotto controllo lo stress, perché quando noi siamo preoccupati, stressati, affaticati a farne le spese è spesso la nostra digestione, perché per digerire bene ci vogliono tante cose, ad esempio non solo la pancia ma anche il cervello. Buongiorno al professor Maurizio Koch, buongiorno, che è in linea con buongiorno, noi. Buongiorno a tutti. Direttore dell'unità complessa di gastroenterologia e patologia all'azienda San Filippo Neri di Roma. Professore, ho esagerato? No, non ha esagerato affatto, anzi questo collegamento tra cervello e cervello intestinale, di cui lei ha anche parlato in altre occasioni, è molto interessante. Il dottor Pellai ci ha parlato molto bene del collegamento di eventi stressanti sul cervello intestinale e dunque anche sulla motilità. Certo. Insomma, c'è una modulazione molto molto diretta tra la testa e il cervello intestinale che potrebbe rallentare la motilità. E infatti quando siamo preoccupati, quando siamo arrabbiati, spesso ci resta tutto sullo stomaco. Salutiamo Alberto Pellai. Alberto, noi ci risentiamo nel corso della trasmissione, grazie per essere stato con noi. Grazie a voi. Ma torniamo. Professor Koch, parliamo di digestione invece degli alimenti. Quanto ci mette il nostro stomaco a digerire? Che cosa lo aiuta e cosa invece lo affatica, lo mette in crisi? Dunque, guardi, la digestione è un processo magnifico, direi, perché intanto stiamo parlando del tratto alto dell'intestino, cioè nel momento in cui il cibo entra nello stomaco, la sola acqua transita in 10 minuti, quindi anche bevande senza calorie transitano in 10 minuti, ma da 10 minuti in su tutti gli altri alimenti richiedono tempi maggiori. E in linea di massima fino ad un'ora o di un'ora e mezza, fino a consentire la modulazione, vorrei dire lo spezzettamento del cibo sotto frazioni subcentimetriche, solo in quel caso lo stomaco vuota nel duodeno il suo contenuto. Allora capisce che il problema è molto più complesso e fortunatamente non lo sentiamo così difficile come qualche volta ci capita. Gli alimenti sono quelli più grassi in linea di massima, o le fibre vegetali rallentano il vuotamento gastrico, e dunque di questo dobbiamo esserne certi. Un'altra cosa importante è sapere che in alcuni casi, per esempio, il consumo di alcol eccessivo può rallentare fortemente la motilità digestiva. Nina, ho mangiato troppo e stasera non ceno. Ma se non hai toccato niente. Come niente? E farfallina all'uovo? Un poco di brodo vegetale. Ma le farfalline all'uovo sono pesantucce. C'è sta l'uovo. C'ho la pancia gonfia. Ti sei mangiato la trippa del signor Centocelle e questo è il risultato. Poi il signor Centocelle è romano. Teniamo il vicino romano, io non mi mangio la trippa. E come faccio maggiore dei carabinieri con la pancia? 800 24 00 24. Chi o che cosa vi fa andare di traverso la digestione? E soprattutto, cosa fate voi per recuperare la situazione? Bevete un buon caffè, vi fate un canarino, respirate a lunga, vi allontanate, mettete la boule dell'acqua calda? Aspetto le vostre ricette all'800 24 00 24, i vostri messaggi al 349 238 6666, ma potete naturalmente mettervi in contatto con noi attraverso la nostra pagina Facebook. Professore, quando noi diciamo digerisco male, facciamo riferimento ad una serie di sintomi. Per alcuni la digestione lenta è la sonnolenza postprandiale, questa bioccone che ci viene dopo pranzo, per altri il bruciore, per altri ancora la mancanza di fame, il bisogno di prendere qualcosa di caldo o di forte, la pancia gonfia. Allora, vuole aiutarci a fare un po' di chiarezza? Sì, forse è meglio fare un po' di chiarezza, vediamo se con un po' di nomenclatura riusciamo. Definirei la digestione lenta il disturbo di peso epigastrico, cioè a livello dell'alto dell'addome, nel dopo pasto, nel post prandiale. Il resto, questa è la prima sintomatologia, sì. A questa spesso si può associare questo bruciore di cui le parlava, che è un bruciore o a livello dello stomaco anche retrosternale, di cui forse possiamo parlare dopo. In sintesi, questi sono i sintomi che possono far pensare a un rallentato vuotamento gastrico che potrebbe rasentare la patologia. Professore, naturalmente è importante anche non sottovalutare quanto mangiamo, perché è naturale, dopo un pasto abbondante, insomma, anche le calorie sono difficili da digerire, poi soprattutto calorie che provengono da un tipo particolare di alimenti, gli alimenti più grassi. E certo, è proprio così. Ci sono tipi di alimenti e tipi di alimenti. Lei faceva cenno, avevamo fatto un discorso prima sui grassi, sulle fibre che richiedono un maggior tempo di assorbimento. L'entità totale del pasto naturalmente comporta tempi diversi. Quanto diceva il dottor Pellai prima è molto interessante, perché ad esempio il tempo di vuotamento gastrico è aumentato o rallentato a seconda delle condizioni in cui ci sediamo a mangiare. Già, sedersi un attimo a mangiare non è da tutti i giorni, no? Spesso rimaniamo in piedi a prendere un panino di corsa. Quelli sono momenti in cui l'accomodamento gastrico, l'accoglienza che fa lo stomaco dilatandosi per poi riprendere la sua motilità, nell'accoglimento del pasto può risultare rallentato. Quindi, mi scusi, professore, per digerire bene bisogna mangiare seduti? Io penso che bisogna mangiare seduti e con calma e, come diceva Pellai, con un buon amico, oppure astenersi un momentino e rimanere da soli e non pensare alle grane che abbiamo nella giornata. Che sono tante, difficile. Allora voi mangiate in piedi o seduti e con chi? E soprattutto che cosa vi resta sullo stomaco? 800 24 00 24. Professor Koch, ci sono però altre situazioni, ci sono delle cose che non solo non ci vanno giù, ma a volte tornano su. Succede anche con le nostre emozioni, con i famosi rimpianti, di cui parleremo anche con Alberto Pellai, ma in alcune situazioni proprio sentiamo questa risalita e la digestione diventa difficile, disturbata. E certo, questa è una delle complicazioni del rallentato vuotamento gastrico. In quanto lei dice, il fatto del qualcosa che torna in bocca è segnale che deve far pensare a un reflusso dallo stomaco verso l'esofago. Lei poi faceva un accenno anche all'amaro. Ecco, il reflusso può essere acido o amaro e in entrambi i casi si tratta di reflusso proveniente dallo stomaco, che chiede una maggiore attenzione. È molto frequente per ognuno di noi avere durante l'anno qualche episodio di questo tipo, ma se gli episodi aumentano di frequenza o di severità e si accompagnano a forte bruciore retrosternale dietro lo sterno, allora forse è il caso di indagare. Intanto arrivano le ricette dei nostri ascoltatori. Serena, la mia ricetta per digerire è il bicarbonato di sodio con acqua e limone. Contro l'acidità, ahimè, ricorro ai farmaci o a tisane dopo pasto. Mentre un altro ascoltatore mi scrive, anzi Antonio da Foggia, ha trovato grande sollievo facendo attenzione all'abbinamento dei cibi, migliorata la digestione e la stanchezza post pasto. Professor Koch, che cosa ne pensa? Il fatto di utilizzare questi accorgimenti credo che sia molto importante, cioè l'attenzione che ognuno di noi può fare al tipo di pasto, alla combinazione degli alimenti, può in realtà essere un'ottima idea. Anche per quanto riguarda il consiglio di Serena, è un'ottima idea. Il bicarbonato obiettivamente tampona la secrezione acida. Posso sconsigliare invece alcune cose importanti. Il famoso digestivo superalcolico deve essere nettamente controindicato. Sì, quello che in Piemonte si chiama il caffè, il pusa caffè, non so in altre parti d'Italia. Non so da lei come si chiama, ma è proprio... Noi abbiamo diversi altri modali, alcuni nomi non possono essere riferiti. Ma insomma, addirittura? Certo. No, ma in linea di massima, dunque, l'alcol in quantità concentrata rallenta il vuotamento gastrico e non è una soluzione. Poi lei ricorderà gli usi di farmaci che venivano dati al bar durante fino a qualche tempo fa a base di aspirina, come l'Alka-Seltzer, ad esempio. Ecco, è bene evitare questi farmaci perché possono essere addirittura tossici sulla mucosa dello stomaco se lo stomaco già di per sé rallenta la sua motilità. Allora, in piedi o seduti, come mangiate, soprattutto oltre agli alimenti? Chi e che cosa vi resta sullo stomaco? Questa è la domanda di oggi, 800 24 00 24. Abbiamo parlato di combinazioni, di associare alcuni cibi per renderli più digeribili. In linea con noi abbiamo il dottor Filippo Ongaro. Buongiorno dottore, bentornato. Buongiorno a tutti. Allora, noi vogliamo mangiare bene, cose gustose e digerire bene. Lo stress è alto, lo sappiamo, il professor Koch ce l'ha spiegato, che insomma lo stress non aiuta la digestione, ma insomma cerchiamo di far buon viso a cattivo gioco. Dottor Ongaro, abbinamenti alimentari più digeribili, quali possono essere? Ma allora, io credo che oggi ci siano più indicazioni che se il tratto gastrointestinale è sano, una dieta che sia variata e che contenga gli ingredienti giusti ma anche mescolati è la cosa più corretta. Quindi io sottolineo sempre i cereali integrali, tante verdure, tanta frutta e una buona dose di proteine nobili. È chiaro che ci sono delle suscettibilità individuali che vanno rispettate. Dove si nota, la persona nota che alcune associazioni rallentano la digestione, è chiaro che bisogna rispettarla. Avete parlato dei cibi molto grassi, questo chiaramente va tenuto in considerazione, come può essere tenuto in considerazione il discorso della frutta, che io per esempio prediligo lontano dai pasti piuttosto che a fine pasto. Ma una sensibilità individuale e credo che sia molto da rispettare la sensibilità di ognuno in questo. Però io vorrei aggiungere, come sempre facciamo, un tocco di sapore. Io vorrei parlare con lei di spezie che aggiungono sapore ma hanno anche un potere disinfettante e digestivo. Dottor Ongaro. No, io sono un grande fautore delle spezie, perché io credo che siano delle sostanze biologicamente attive che possono dare proprio quel pizzico di funzione terapeutica in più alla nostra dieta quotidiana. È chiaro che anche qui vanno rispettate un po' le suscettibilità individuali, quindi non lo so, penso al peperoncino che ha grandi virtù, però per certe persone non è adatto proprio per questo, come si può dire, sensazione di bruciore che può dare nell'esofago e nello stomaco. Ma ad esempio quindi, la curcuma, professor Koch, è stata riconosciuta come una spezia ad alto potere disinfettante, e il pepe, che era stato un po' messo sul banco degli imputati, invece risultate essere una spezia con potere digestivo. Assolutamente, direi anzi che l'associazione proprio tra curcuma e pepe nero è quella che garantisce anche l'assorbimento migliore della curcuma stessa. È evidente anche che queste sostanze, proprio perché sono biologicamente attive, hanno un'azione importante nell'organismo e quindi va tenuto in considerazione, per esempio, oggi l'utilizzo di spezie in chiave nutraceutica, quindi davvero utilizzandole come dei farmaci estratte e potenziate, trova un ruolo molto importante in alcune terapie. Appunto, come stavate dicendo, la curcuma come antinfiammatorio, mi viene in mente, ha un potenziale d'azione sicuramente molto importante. E da qua anche però una certa attenzione quando si usano queste sostanze come dei nutraceutici o degli integratori, più banalmente detto, anche attenzione con le associazioni con i farmaci. Infatti, perché è vero che le spezie hanno, tra le altre proprietà, quella di aumentare la vita di alcuni farmaci, ma se questo è vero, c'è anche il rovescio della medaglia, dottor Ongaro. No, io credo infatti che sia importante distinguere se utilizziamo le spezie in una normale routine quotidiana casalinga, a casa per cucinare, non mi preoccuperei troppo, francamente. Dove invece la spezia viene utilizzata come integratore, come nutraceutico e quindi con un ruolo terapeutico, beh, lì ci deve essere la prescrizione di un esperto, perché invece l'interazione con i farmaci e anche con l'azione biologica di essi è importante. Penso, non lo so, all'azione sulla glicemia della cannella, all'azione antinfiammatoria della capsaicina del peperoncino, penso allo zenzero, penso a tante di queste sostanze che hanno un ruolo terapeutico, ma proprio perché ce l'hanno vanno utilizzate con attenzione e con conoscenza. Dottor Ongaro, grazie per essere stato con noi. Grazie a voi, buona continuazione. Professor Koch, lei resta con noi, andiamo a sentire i mercati, il meteo, poi abbiamo Monica e Antonio, dopo il meteo naturalmente, intanto 800 24 00 24, consigli per digerire meglio la vita. Essere e benessere. Tornati oggi, cerchiamo di digerire bene la vita. Abbiamo, lo sappiamo tutti, non digeriamo solo quello che mangiamo, ma anche quello che viviamo, quello che proviamo, le emozioni, le relazioni. Ne abbiamo parlato con il professor Alberto Pellai, ne stiamo parlando col professor Maurizio Koch. Professor Koch, vorrei sottoporle alcune delle degli stratagemmi suggeriti dai nostri ascoltatori per digerire bene. La camomilla calda funziona? La camomilla calda può funzionare perché è un blando, intanto c'è un problema, diciamo che è un blando coordinatore della motilità dello stomaco e dell'intestino. Questa mi piace come definita, un blando regolatore. Regolatore. Allora, un ascoltatore, Enrico, mi chiede di appunto sentire il suo parere perché lui digerisce bene da quando ha eliminato gli alimenti di origine animale. Qui mi trovo un po' in difficoltà. Vorrei consigliare a questo suo ascoltatore comunque una minima dose di carne bianca, che sono almeno due porzioni alla settimana, perché la quota come si può dire, di ferro è prevalentemente all'interno della carne, dunque deve essere, come si può dire, è somministrata settimanalmente. Il resto faccia pure una buona dieta vegetariana, se no appunto i legumi abbinati ai carboidrati no, per avere certo, delle proteine certo. Nobili forse se mi permette Nicoletta. Ma certo, è lei il professore? Professore, certo. Come? È lei il professore? Ah, no, per assolutamente. No, ma voglio dire, sono occasioni sì. Queste per raccomandare alcune cosette sì. Importanti nella nutrizione che fortunatamente nella gran parte di noi è mediterranea. Insomma, 4 etti tra verdura e frutta sono un'ottima difesa dal cancro. Bere un litro litro e mezzo di liquidi al giorno è un'ottima difesa. Attività fisica, una seduta di un'ora, tre volte a settimana. Chissà se abbiamo tempo poi di parlare dello yoga. Sarebbe interessante, è molto importante come abitudine igienica. Queste misure riducono sensibilmente i disturbi della digestione. Un altro ascoltatore mi scrive che lui pratica il rimedio del digiuno e della moderazione. Sulla moderazione mi trova d'accordo. Gianni ci scrive da Roma. Sul digiuno, professor Koch, bisogna andare un po' cauti. Sì, credo che sul digiuno bisogna stare un po' cauti. C'è un problemino, come si può dire, fisiopatologico. La colecisti, questa sconosciuta che poi interviene subito dopo lo stomaco emettendo la bile per favorire la digestione, rimane ferma durante il digiuno. La bile staziona all'interno della colecisti. Ecco, se il digiuno è troppo prolungato, lo stazionamento favorisce la cosiddetta litiasi della colecisti. È una cosa importante da sapere questa. Non è opportuno fare periodi di digiuno troppo lunghi. In linea con noi abbiamo Alessandro che ci chiama dalla provincia di Modena, poi Antonio dalla provincia di Forlì e Dino dalla provincia di Foggia. Buongiorno Alessandro, benvenuto. Buongiorno. Buongiorno. Niente, quello che devo dire è quello che il motivo per cui ho chiamato. Sì. Volevo portare una mia semplice testimonianza. Io a volte mi succede di soffrire di pulsioni di stomaco, no? E diversi anni fa, così casualmente, per caso, mangiai un pezzetto di formaggio grana. Sì. E fu come quasi una immediatamente, nel giro di pochissimi minuti, mi sono è sparito tutto. È vero, è portentoso. E dopo, successivamente, da quella volta, quando ho quelle volte con i bruciori di stomaco, mi succede continuamente così, cioè, vuol dire, è un rimedio. Quindi, grana, per quello che mi riguarda. Alessandro, per cui per lei grana batte canarino, 1-0. Professor Koch, devo dire che io l'ho provata e quando aspettavo le mie bambine, ero incinta, il parmigiano e grana avevano questo piacevole effetto antinausea, per cui sposo il suggerimento di Alessandro, ma so che ciascuno di noi è fatto in modo diverso. Certo, e ogni il canarino lo perde sempre, lo lasciamo da parte, ma povero canarino. Niente canarino, ma noi ci interesserebbe invece questo discorso del parmigiano, è molto interessante. Altri preferiscono un biscotto più semplicemente, o ad un pezzo di pane ad esempio. In linea di massima poi va un po' distinto il bruciore dello stomaco dal bruciore dietro lo sterno, che fa parte appunto del reflusso gastroesofageo. Ecco, gli alimenti in linea di massima che possono peggiorare, forse questo potremmo discutere un attimo. Bravo, questo mi piace. La motilità, nel senso di favorire il reflusso gastroesofageo, dovremmo un momentino saperli, e sono essenzialmente pochi, sa, perché sono il cioccolato, la menta e il superalcolico. Ecco, generalmente questo potremmo dire, compreso dovremmo comprendere un abuso di caffette, solo l'abuso, non il pomodoro. Sul pomodoro non c'è nessuna evidenza, quindi è un discorso che... E vai, viva il pomodoro. Viva il pomodoro. Ornella. Dieta mediterranea. Ornella da Bergamo, buongiorno. Buongiorno Nicoletta, buongiorno dottore. Eccoci. Ho una domanda, buongiorno. Visto che ho questi problemi esofagei purtroppo. Chiedevo se lo zenzero, il ginger famosissimo, siccome passa come gastroprotettore, nelle forme di questo tipo può essere un vantaggio, può fare bene, può dare benefici. Professore? La risposta è che potrebbe dare benefici, ci sono dei segnali che diano dia benefici. Posso ricordare alla signora una cosa importante, cioè in realtà quello dà benefici, ma potrebbe dare benefici su sintomatologia lieve. Io invito gli ascoltatori a fare un po' di attenzione se il bruciore o addirittura il dolore dietro lo sterno dovuto al reflusso gastroesofageo è molto severo, perché se è severo e frequente è opportuno utilizzare alcuni farmaci, certo. Ed anche una gastroscopia fare. Dino ci chiama dalla provincia di Foggia, buongiorno. Buongiorno, ecco la mia domanda. Dino, può parlarci un pochino più con la voce più da Dino, un po' più, eh? perché non la sento. Ah, non si sente, mi scusi. Grazie. Volevo dire, allora io faccio una cosa, digerisco molto bene, insomma, la domanda, siccome vado a dormire il pomeriggio, lo posso fare e quindi con il mio lavoro va bene, non mi fa male, mi fa bene, io volevo solo sapere, siccome tutti dicono no, dopo mangiare non andate a dormire. Ma come? Ma perché? Quanto dorme? Perché sono invidiosi? No, un'oretta, e poi mi... Sveglio presto la mattina, ma è un'abitudine che ho da parecchio, insomma. Dino, dia retta a me, le dicono di non dormire perché loro non possono farlo, perché la pennichella e aiuta. Certo che bisogna fare la regola d'arte. Sentiamo il professor Koch. Ma io sono molto d'accordo, la pennichella vuol dire viene da pendere un pochino, tra l'altro è proprio romano come termine. Il discorso è molto interessante. Credo che una cosa soltanto vada aggiunta, al di là dell'invidia per questo gentile signore che fa la pennichella regolarmente. Il problema è, invece concerne il riposo sdraiato in chi ha una malattia del reflusso. Questo in realtà dovrebbe essere fortemente non raccomandato. Chi ha una malattia del reflusso, chi ha l'esofagite, è bene riposare su una poltrona e non distesi. Perché ce la sentiamo, è la mia preferita. Carmelo Lauricelli in regia lo è. La pennichella classica ha un suo cerimoniale. Bisogna stare le regole, perché se no non vale. Il letto è sconsigliabile e il sonno la devasta. C'è la sedia a dondolo o una poltrona bassa. E quindi la sedia a dondolo, professor Koch, è l'ideale anche per chi soffre di reflusso, quindi, perché non si sta completamente sdraiati e quindi si evita che il cibo torni su, come fanno a volte le nostre emozioni. Succede con i rimpianti. Alberto Pellai ci ha raggiunto nuovamente. Ciao Alberto. Ciao, eccomi qua. Continuando la nostra, così, il nostro parallelismo tra emozioni ed alimento, è vero, alcuni alimenti tornano su e alcune emozioni ritornano e a volte ci lasciano l'amaro in bocca, proprio come succede ad alcuni alimenti, e sono i rimpianti. Sì, direi che quello potrebbe, sempre usando la metafora della digestione, ci sono proprio delle cose che nella vita non abbiamo digerito e che conseguentemente teniamo incorporate dentro di noi e a volte rischiano di rovinarci l'esistenza, sembrano quasi dei veri e propri pensieri ossessivi che non possono essere modificati. Ecco, mi sentirei di dire che noi non possiamo più cambiare quello che è stato, noi è molto difficile cambiare eventi che sono successi nel passato e che non ci sono andati bene. L'unico potere di cambiamento che abbiamo è quello di cambiare noi stessi, e questo è proprio come, così come una cosa che c'è nel piatto e che abbiamo paura di non riuscire a digerire. Ecco, noi possiamo prendere un nostro pensiero che non abbiamo digerito, un'emozione che non abbiamo metabolizzato, lavorarci un po' intorno e trasformarla in qualcos'altro. E a guadagnarci potrebbe essere anche la nostra salute. Andiamo a sentire una ricerca che abbiamo tratto da Salute 24 che parla proprio del rapporto tra rimpianti e salute. Aveva ragione Edith Piaf quando cantava Je ne regrette rien. Rimpianti e confronti possono deprimere il sistema immunitario e far ammalare di più. Lo sostengono i ricercatori della Concordia University in Canada, guidati da Isabel Bauer, che hanno constatato come le persone ripiegate sulle occasioni perdute o gli errori fatti nel passato hanno, ad esempio, più raffreddori di altri. Il disagio emotivo dei rimpianti può innescare una disregolazione biologica del sistema ormonale e immunitario, che rende le persone più vulnerabili a sviluppare problemi di salute, come un raffreddore o altre malattie a lungo termine, dice Carsten Roche, che ha collaborato allo studio. Lo studio, pubblicato sulla rivista Personality and Social Psychology Bulletin, è stato condotto su 104 adulti di età diverse che dichiaravano il motivo del loro disagio, che andava dalla mancanza di tempo per stare in famiglia all'aver sposato la persona sbagliata. L'obiettivo è quello di suggerire tecniche psicologiche, coping, per affrontare il disagio. La soluzione degli psicologi è un po' al ribasso, ma sembra funzionare. Chi si confronta con chi sta peggio si ammala di meno. No. la ricerca insegna che? Ma direi che in questo caso di fare molta attenzione al potere della nostra mente, perché noi possiamo davvero sentirci in balia degli eventi, quindi perdiamo il controllo e entriamo in una situazione, in una zona grigia di passività, dove effettivamente perdiamo tono, ci sentiamo molto più deboli e il quadro è quello che un po' ci avvicina alla depressione. E a deprimersi spesso non è solo il tono dell'umore, ma è proprio il tono generale del nostro corpo. Noi perdiamo competenza insieme alla potenza e quella è anche una competenza immunitaria. Dentro alla ricerca c'è però scritto che noi abbiamo la possibilità di fare coping, cioè di poter reagire alle cose che non vanno bene. Noi abbiamo un potere, noi possiamo acquisire una competenza, certo dobbiamo trovare il modo. E la certo. più facile che viene detta lì è quella di guardare chi sta peggio, ma secondo me il pensiero che ci fa bene è imparare a capire come possiamo stare meglio. Facciamo coping? Hai detto. Esatto. Ok, allora questo è il messaggio. Essere e benessere. Masticare chicche di caffè tostati è un tocca sana per la nausea e il bruciore di stomaco. Così ci racconta Raffaele di Salerno, che ci manda un messaggio al 349-238-6666. Professor Koch. È interessante, non ne so assolutamente nulla, so soltanto che è possibile questo effetto. No, perché voglio dire, l'esperienza personale è importante. Possiamo provarci. Possiamo provarci senz'altro. L'unica mia raccomandazione a proposito del caffè, ma non si parla qui naturalmente di chicchi, è non abusare in corso di disturbi digestivi di cui stiamo parlando oltre le 2-3 tazzine al giorno, perché questo realmente potrebbe peggiorare invece la situazione invece di migliorarla. Professor Koch, ma molti dei nostri ascoltatori mi scrivono: io digerisco male e mi viene mal di testa. Vorrei che lei ci spiegasse, come sa fare lei in modo molto chiaro, che relazione c'è tra la nostra digestione e il mal di testa. C'entra sempre il secondo cervello, che chiama in qualche modo il primo? Che cosa succede? E soprattutto, si può prevenire o rompere questa comunicazione in modo che le due cose siano ben distinte? Perché è molto fastidioso avere la sensazione di pesantezza di stomaco e di cerchio alla testa. Almeno una delle due farle sparire, evitarle. Certo, posso raccomandare, la domanda è molto intelligente, è molto importante, anche perché realmente influenza il mal di testa, il disturbo digestivo, la qualità di vita, e anche molto. C'è una cosa che vorrei raccomandare agli ascoltatori: guardate, osservate se parte prima il mal di testa del disturbo digestivo, perché in questo caso il problema è la cefalea, e la cefalea va gestita come un disordine in effetti molto importante del cervello, che ha diverse cause. Possiamo risentire Alberto anche da questo punto di vista, se fosse ancora in linea, ma il punto centrale è che comunque il mal di testa può rallentare a sua volta la motilità digestiva fino ad indurre nausea. Quindi bisogna vedere qual è il sintomo che avvertiamo prima, perché è lì la causa. Ecco, direi proprio che è così il punto. La seconda ipotesi, cioè quella che sulla digestione, nella digestione compaia invece mal di testa, può far pensare a intolleranze alimentari di un certo tipo. Non dimentichiamoci anche della celiachia nascosta, che andrebbe un pochino ricercata qualche volta se il disturbo proseguisse a lungo, o di alcune intolleranze alimentari specifiche. Tra i farmaci, tra gli alimenti che danno intolleranze ci sono i crostacei, ad esempio, c'è di nuovo la cioccolata di cui parlavamo prima, c'è in qualche persona il vino rosso. Ecco, in questi casi lo scatenamento del disturbo digestivo influenza a sua volta il mal di testa. Andiamo ad Amelio, che ci chiama da Viareggio. Buongiorno Amelio. Buongiorno a voi. Buongiorno. Io faccio il cuoco. Oh, Amelio. E quando altre cose sono anche presuntuoso, perché credo di fare una delle poche cucine così detta sana e rispettosa. Nel senso che se compro un buon prodotto io faccio in modo di non alterarlo, perché cucinare significa cuocere, intenerire, ma anche alterare. Bene, io ho quest'idea, e qui però sentendo voi a questo punto metto tutto in dubbio. Se io rispetto il prodotto, che ovviamente deve essere sano, penso che la digestione è inevitabile. Se in realtà uso il mestiere, le alchimie che il mestiere mi consente, molto probabilmente faccio qualcosa di buono, ma sicuramente poco digeribile. Io infatti non uso le spezie, perché spezie significa sì forse sapore, però non sento più il prodotto che io ho comprato e che io voglio mangiare. Sento una materia con un sapore che non è il suo. Ma la domanda è, ma se io rispetto il prodotto e la stagionalità, è così difficile la digestione o è più semplice? Grazie. Grazie a lei, poi noi ci inchiniamo da meglio, cuoco di Viareggio, professor Koch, grande chef, grande consiglio. È vero? Se noi lasciamo gli ingredienti e prendiamo ingredienti freschi, stagionali e proponiamo, come penso ci suggerisce Amelio, una cucina pulita, noi abbiamo aggiunto le spezie, abbiamo vantato le proprietà terapeutiche digestive, ma Amelio dice non dovrebbe essere più facile digerire. Sì, ma non sempre, non per tutti, o sbaglio? No, è un po' è così. Anche quanto dice Amelia, il punto centrale è che in realtà ha ragione perfettamente, dovremmo seguire la stagionalità dei diversi alimenti, questa ha ragione perfettamente, queste grosse frutti durante il periodo invernale di provenienza non nota forse non sono proprio il massimo. Ma il punto è che in realtà qualcuno, nonostante una buona cucina, ha disturbi lo stesso. E ne abbiamo sentito parlare in precedenza, i problemi possono essere diversi. A questo punto il discorso è un pochino, si tratta forse di una fetta inferiore di persone, ma il disturbo non credo che si esaurisca soltanto con una buona cucina, in qualcuno c'è qualcos'altro. In qualcuno c'è qualcos'altro. 800 24 00 24, se volete ancora intervenire. Intanto io saluto Benedetta Spada, insegnante di yoga. Ciao Benedetta. Ciao Nicoletta, buongiorno. Allora, noi vogliamo prepararci ad affrontare la pausa pranzo un pochino più rilassati, quindi sciogliendo un po' lo stress, perché abbiamo visto che se siamo affaticati, arrabbiati, stressati, digeriamo male. Ma subito dopo io vorrei che tu suggerissi anche rapidamente un consiglio per il dopo pranzo, per digerire bene quello che abbiamo mangiato. Vai Benedetta, siamo nelle tue mani. Il kit che ci può aiutare a vivere meglio il momento del pasto è composto da tre tempi. Il primo, il prepasto, un'attenzione particolare va al nostro respiro, quindi impariamo a respirare correttamente e prima di mangiare concediamoci qualche minuto, qualche secondo, dedicando delle inspirazioni profonde nelle quali gonfiamo e espandiamo l'addome e delle espirazioni altrettanto lente e profonde nelle quali svuotiamo il nostro addome completamente come un palloncino. Qualche minuto basterà per poi approcciarci al pasto con un sorriso ed evitare eventualmente di parlare troppo per masticare meglio. Dopo il momento del pasto, invece, dedicarci qualche attimo per un automassaggio che partirà dalla parte bassa dell'addome a sinistra e seguirà appunto il percorso della nostra digestione, come una carezza quotidiana. Grazie a Benedetta Spada. Volevo solamente un rapido commento del professor Koch per questi consigli pre, durante e post pasto, per prendere più consapevolezza anche per evitare anche di mangiare più aria. E quindi è proprio così. Benedetta è una grande, dare dei consigli in 3 minuti o in 2 minuti come ha fatto è veramente da grande esperta. Io sono a sentire con grande interesse, perché non sono uno specialista. Penso che invece questa componente di rilassamento, come diceva Benedetta, possa aiutarci molto, non soltanto durante il pasto, ma durante la giornata. Noi siamo un po' complessi, no Nicoletta? Ah sì, professore, però siamo magnifici. Sì, io penso di sì. Vero? Grazie al professor Cocca, Benedetta Spada, Carmelo Lauricelli in regia, la parte tecnica, Laura Vanossi in redazione. Grazie a voi che siete sempre speciali e io vi aspetto domani, sempre dopo il GR delle 11. Scaricatemi. Buona giornata da Nicoletta Carbone.